in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24. Oggi i giornali sono tutti dominati da quello che sta succedendo in Ucraina, e con molta cronaca che ovviamente verrà poi superata nella giornata, e qui su Radio 24 naturalmente seguiranno i miei colleghi da vicino gli sviluppi di quello che sta succedendo sul campo e di tutte le varie dichiarazioni e controdichiarazioni di Putin e degli altri leader mondiali, ma ci sono anche tante analisi. Cominciamo dal Corriere della Sera, che titola quasi a tutta pagina: Putin minaccia l'invasione dell'Ucraina. La foto è suggestiva e impressionante allo stesso tempo. C'è un carro armato e davanti a questo carro armato ci sono dei monaci ortodossi in preghiera. Questo carro armato è uno dei blindati russi che Putin ha deciso di schierare a Balaclava in Crimea. Vi leggo l'articolo di Franco Venturini, che si chiama Il bastone dello zar, perché la questione è intricatissima. Noi ne abbiamo parlato anche di una questione che oppone, diciamo, parte dell'Ucraina che vuole avvicinarsi all'Unione Europea, quella parte che invece è storicamente più vicina alla Russia, ma i nodi sono tantissimi. C'è per esempio anche quello dell'energia, ci sono le questioni economiche. E allora leggiamo la prima e l'ultima parte di questo articolo di Franco Venturini, che ho trovato tra i moltissimi commenti che ci sono sui giornali, molto significativo. Vi cito anche la vignetta di Giannelli, però, che è piccolina, senza parole, tranne il titolo, che è Yalta 2014. Yalta, sapete, è stato il vertice post seconda guerra mondiale, dove erano protagonisti Winston Churchill per la Gran Bretagna, Franklin Delano Roosevelt per gli Stati Uniti e Stalin per la Russia, cioè i vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Qui ci sono tantissime foto di quel vertice, che ha deciso sicuramente il futuro del mondo per molti anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Giannelli disegna una Yalta 2014, dove ci sono tre personaggi che dai vestiti potrebbero sembrare Churchill, FDR e Stalin. In realtà invece sono sempre Putin, quindi Putin, Putin, Putin. Allora il pezzo di Franco Venturini. Ora lo riconosciamo, Vladimir Putin. Non è più quello edulcorato che voleva a tutti i costi chiudere in bellezza i giochi di Sochi. Non è più nemmeno quello silenzioso dei giorni seguenti. Ora la pianificazione è finita. Il giocatore di scacchi che è in lui ha elaborato una strategia consona alle tradizioni russe. Sarà l'uso della forza a raccogliere la sfida ucraina e a far sapere a Kiev, come alle capitali d'Occidente, che nulla può essere fatto in Ucraina senza tener conto degli interessi della Russia. In verità questo ben pochi lo ignoravano, e può far testo l'insistenza con la quale Angela Merkel ha tentato di coinvolgere il Cremlino nella mediazione condotta con poca fortuna dagli europei. Ma una mano tesa per riparare al micidiale sconfitta di Piazza Maidan a Putin non poteva bastare. E allora ecco che soldati senza insegne, ma troppo disciplinati e ben equipaggiati per non essere russi, si impadroniscono delle infrastrutture strategiche della Crimea. Sono usciti dalla base navale di Sevastopoli, oppure sono giunti dalla Russia mentre Putin ricordava con i suoi interlocutori occidentali che l'integrità territoriale dell'Ucraina va salvaguardata? Ormai poco importa, perché Putin ha impugnato un bastone più grosso: si è fatto autorizzare dal Senato di Mosca l'invio in Crimea di altri soldati, senza tuttavia decidere subito il loro trasferimento. E poi la parte finale. Ma il punto è che le acrobazie di Putin, per quanto brillanti, non possono nascondere la distanza che separa una rivolta popolare da un intervento armato. Non possono mascherare che da parte russa è una reazione ampiamente prevedibile, ma non per questo meno inaccettabile. Putin pensa di ripetere la Georgia del 2008? Di mandare tutte le sue forze in Crimea? Sarebbe un temerario se lo facesse, scatenerebbe una guerra civile dalla quale dovrebbe poi districarsi. Favorirà l'indipendenza della Crimea, la sua secessione? La Crimea, sapete, è la parte dell'Ucraina più vicina, si dice, per semplificare, alle idee di Putin, alla Russia di Putin. È possibile, ma è più probabile che mentre muove le truppe aspetti al varco un'Ucraina sull'orlo del default, ed eccoci alla questione economica, alla quale Mosca può ritirare aiuti e sconti sul gas. Nessuno in Occidente, pensa Mosca, vorrà pagare un conto di 35-40 miliardi di dollari nei prossimi 2 anni. Questa è la vera, la più potente arma di Putin. Ora tocca all'Occidente raccogliere la sfida. Dalla prima pagina della Repubblica il titolo: Putin alla guerra di Crimea. E qui c'è un Un reportage di Bernardo Valli che è andato a Kiev, in questa piazza Maidan che è stata il principale teatro delle manifestazioni e poi degli scontri dove sono morte decine di persone. E vi segnalo però l'intervento ospitato da Repubblica di Angela Merkel, appunto la cancelliera tedesca, intervento che Repubblica ha deciso di titolare "Rivedo cadere il mio muro, proteggeremo la libertà". Vi leggo le prime righe, poi l'intervento continua a pagina 5 di Repubblica. Pace, libertà, benessere, le tre promesse fondatrici e valori costitutivi dell'Europa davvero non hanno perso attualità oggi. Molti dicono che la promessa valore della pace è realizzata da tempo, ma nell'immediato dopoguerra fu motivo immediato del cercare di trovarsi insieme tra europei. Quindi un po' una certificazione dell'importanza dell'Europa, e allo stesso tempo sappiamo che per ora l'Europa in questa questione è assente. Addirittura nel weekend non si è trovato il tempo, in qualche modo, perché i ministri degli esteri o perché il commissario per gli affari esteri dell'Europa si riunissero, facessero il punto, prendessero delle decisioni, facessero degli annunci. Niente, la voce dell'Europa per ora è assente. Poi naturalmente dalla Repubblica, ma anche sugli altri giornali, c'è la questione, le nostre questioni politiche, con Renzi che, sapete, ieri è intervenuto al congresso del Partito Socialista Europeo, di cui il PD è entrato a far parte. E in questo caso è interessante l'intervento, anche qui un intervento diretto di Matteo Renzi spedito a Repubblica, che riguarda la mafia, perché qualche giorno fa su Repubblica, proprio, sempre su Repubblica, lo scrittore Roberto Saviano aveva fatto un appello perché venissero meglio utilizzati i beni confiscati alla mafia, e che comunque, tra l'altro ieri c'è stato un convegno di Libera, sono comunque pochi rispetto a quello che potrebbero essere questi beni confiscati, quindi pochi confiscati e comunque usati male. Allora c'è questo intervento di Matteo Renzi che risponde a Saviano, trovate tutto a pagina 9, sono 5 punti. Caro Saviano, 5 mosse per sconfiggere la mafia, sia al commissario anticorrotti. E poi magari, se ci sarà tempo, ne leggeremo una parte. Ma vi segnalo anche una bella intervista di Pierluigi Bersani, ex segretario del PD, che Repubblica sceglie di titolare "Aiuterò Matteo a diventare più concreto", di Goffredo De Marchi. Si inizia in prima pagina e continua a pagina 11, ed è, appunto, visto che sappiamo quante voci contrarie ci siano a Renzi, più paradossalmente all'interno del PD che non all'esterno del PD, questa intervista di Bersani trovo un buon modo di cominciare questo governo. Il nostro sistema traballa, l'articolo 18 non è un trablù, ma l'alternativa costa cara. Questo il titolo all'interno, pagina 11, dice Bersani, anche qui boccata d'aria: non cerco rivincite, aiuterò il Premier. Ripeto che il Premier e il suo governo, precisa però Bersani, che non è certo uno che non parla chiaro, non brillano per umiltà. Il punto è che hanno creato aspettative altissime, ma resta l'indeterminatezza degli obiettivi. Quindi proprio una mano tesa di Bersani a Renzi. Prima pagina del Sole 24 Ore, venti di guerra in Ucraina, tantissimi anche qua gli approfondimenti, un'analisi di Ugo Tramballi che trovate a pagina 3, lo zar si avvicina al punto di non ritorno, e poi anche un'interessante analisi di George Soros, scritta per il Sole 24 Ore: serve un piano Marshall a guida tedesca. Quindi abbiamo visto le difficoltà enormi dell'Ucraina, Franco Venturini sul Corriere stima in 40 miliardi di euro la necessità di denaro per evitare il default, e di questo parla George Soros, pensando che, appunto, a guidare il salvataggio dell'Ucraina potrebbe essere la Germania. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche il punto di Stefano Folli, che naturalmente riguarda il governo Renzi, patti ambigui verso il 2015, lo trovate poi, inizia a, in prima pagina, lo trovate a pagina 13. Un'analisi di Roberto Dalimonte, che sapete è il nostro esperto di sondaggi e di tutto quello che riguarda proprio l'analisi tecnica del voto, legge sul voto premio Mini, anche questo lo trovate a pagina 13. Il consueto intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco, alla domenica sul Sole è dedicato al cardinale Martini, e la anche qui consueta lettera al risparmiatore che ogni domenica il Sole 24 Ore dedica a un'azienda quotata, sempre a cura di Vittorio Carlini, collega della redazione di Finanza, oggi è dedicata alla Recordati, che è una delle più importanti aziende farmaceutiche italiane, focus sulle malattie rare, la scommessa è negli emergenti naturalmente i paesi emergenti. La prima pagina della stampa, via libera della Russia all'intervento in Crimea. Qui la foto è di paramilitari filorussi nel centro di Simferopoli, perché abbiamo visto come appunto le rivolte, le manifestazioni e purtroppo anche la comparsa di soldati all'inizio riguardavano soltanto Kiev, la capitale dell'Ucraina, e poi si sono spostati anche in tantissimi altri paesi. Ci sono praticamente 5 pagine di reportage sulla stampa sulla questione ucraina. Poi dalla stampa vi segnalo, ma come potete immaginare c'è su tutti i giornali, un accenno a quello che succederà stasera, dove a Hollywood verranno consegnati gli Oscar e naturalmente il film La grande bellezza di Paolo Sorrentino è in gara per il come miglior film straniero. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ancora ben ritrovati alla rassegna stampa dei giornali italiani. Abbiamo visto che tutte le prime pagine sono dedicate a quello che sta succedendo in Russia e vediamo quindi anche in Ucraina, e quindi anche la stampa, via libera della Russia all'intervento in Crimea. Ma dalla prima pagina della stampa vi segnalo un'inchiesta su quello che viene chiamato il modo in cui si produceva il cibo una volta. Il titolo della prima pagina, della prima puntata di questa inchiesta di Michele Brambilla, è Obelix, il bue più gustoso del mondo. È un bue che ha vinto un premio il 12 dicembre alla fiera di Carrù in provincia di Cuneo, sapete, famosa per la carne. Questo bue non è esattamente un peso piuma, pesa 1467 kg. È la prima di alcune storie che oggi iniziamo a raccontarvi. Ci parlano del cibo prodotto come si produceva una volta. E poi alle pagine 14 e 15 trovate la storia di Obelix, che è un bellissimo bue bianco, e poi un'intervista a Carlo Petrini, che martedì riceverà un master honoris causa in economia a Torino. Carlo Petrini, sapete, il fondatore di Slow Food, che ci parla appunto della cultura del mangiare. Sapete tra l'altro che nutrire il pianeta è anche il tema di Expo 2015, che è questa grande manifestazione a cui ci prepariamo qui a Milano e che tutti speriamo sia un volano per non soltanto per la città ma per l'intero paese. La prima pagina di Avvenire, vicino al precipizio, naturalmente il titolo è riferito a Kiev, all'Ucraina. In Crimea reparti speciali, nell'est primi scontri, Kiev mobilita l'esercito, domani Yulia Tymoshenko va al Cremlino per cercare una soluzione. Ma vi segnalo dall'Avvenire che, come sempre, ha il grande pregio di puntare su notizie che magari vengono dimenticate dagli altri giornali dopo essere magari state in prima pagina per qualche giorno, e oggi è la fotonotizia della prima pagina dell'Avvenire dedicata all'emergenza in Sardegna. Sardegna, la prova della vera fame. La Sardegna ha fame, la Caritas prova a sfamarla a prezzo politico. Sull'isola l'emergenza alimentare ormai quotidiana. Nei centri d'ascolto 4 richieste di aiuto su 10 sono di viveri e crescono. Il 47,7% di tutti gli interventi sono concentrati su questo fronte. Le 10 Caritas sarde alimentano un autentico fiume di pasti caldi, 440.000 all'anno, cui vanno sommati altrettanti pacchi viveri. È una controffensiva però costosa. Trovate il reportage a pagina 11. La Sardegna è naturalmente colpita da molte calamità naturali, ma anche attraversata comunque dalla crisi come tante altre regioni, e forse meno equipaggiata di altre regioni per soccorrere chi di questa crisi porta il peso maggiore, cioè le persone che hanno comunque i redditi più bassi. Prima pagina del Messaggero, Ucraina, la guerra di Putin. Poi naturalmente c'è una fotonotizia dedicata alla grande sfida che si è svolta ieri all'Olimpico, Roma-Inter, finita 0-0 con molte polemiche arbitrali come sempre. E poi, visto che siamo, il Messaggero è il quotidiano di Roma per eccellenza, si torna sul cosiddetto Salva Roma. Renzi da 2 mesi a Marino, il piano vincolato al suo ok. Quindi sappiamo che alla fine è stato trovato un modo per salvare Roma dal default, ma con molte condizioni, e qui se ne parla diffusamente alle pagine 8 e 9. Il titolo di Libero, arriva la tasi di Renzi, peggio dell'Imu di Monti. Si è parlato appunto naturalmente anche di questa, quella che è stata chiamata, ho sentito chiamare di recente, mi è sembrato un modo efficace di definirla, la telenovela dell'Imu, o comunque la telenovela delle tasse sulla casa. Ecco, adesso scrive, secondo Libero, con la nuova imposta pagheremo 140 euro in più sulla prima casa, ci sono tutte le simulazioni nelle varie città, con l'aumento al 25% del prelievo sulle rendite avremo le tasse sui risparmi più alte d'Europa. Quindi uno scenario, quello dipinto da Libero, che sappiamo però è ancora molto da definire, perché le misure fiscali, Renzi continua a dirlo, vanno riviste tutte insieme, e A breve probabilmente ci verrà dato il quadro generale e appunto questo è quello che scrive Libero. Il giornale invece punta sulla questione delle elezioni, elezioni sì, elezioni no, anche qui Berlusconi dice, per esempio, ripete continuamente, anche ieri l'ha fatto, si voterà nel 2015, c'è chi invece vuole come Renzi, almeno a parole, portare la legislatura al suo naturale compimento nel 2018, quindi il titolo del giornale, la svolta del PD, si vota tra un anno. I renziani, le elezioni non sono un tabù, tensione con il nuovo centrodestra per il sottosegretario Gentile, sapete che è un alfaniano su cui ci sono molte polemiche. La prima pagina dell'Unità, Putin ha la guerra in tasca, l'Unità è forse l'unico giornale che emette il titolo dedicato all'Ucraina e alle decisioni di Putin a tutta pagina. E poi c'è subito sotto invece la questione PSE, Partito Socialista Europeo, di cui il PD è entrato a far parte. Ieri Renzi è intervenuto con forse per la prima volta un discorso in cui non è andato a braccio ma era preparato e si sentiva. Schulz e Renzi, ora una nuova Europa, il congresso PSE sceglie il suo candidato e approva il manifesto per il voto di maggio. Il voto di maggio naturalmente è quello delle elezioni europee a cui sono chiamati tutti i paesi dell'Unione Europea. Il manifesto, la fredda guerra e non la guerra fredda, il commento di Norma Rangeri, il compagno Martin Schulz, quindi il commento in prima pagina non riguarda la questione tra Ucraina e, o meglio, non riguarda l'Ucraina e quello che le decisioni che sta prendendo Putin, ma invece appunto la questione politica. Vi leggo il commento di Norma Rangeri, che sapete è molto critica, direttore del manifesto, molto critica verso il governo Renzi e anche verso Martin Schulz, che si candida, tra l'altro si è già candidato a essere presidente della Commissione europea nel prossimo esecutivo, quello che appunto nascerà dopo le elezioni di maggio. Vi leggo quindi le ultime righe del suo ritratto di Martin Schulz. Schulz è un bravo equilibrista, molto attento a non nominare la revisione dei trattati, a non citare mai la BCE, a glissare sulle larghe intese che in Germania e in Italia continuano a parlare la lingua del fiscal compact. Una lacuna tempestivamente colmata da Renzi quando nel suo breve intervento ha assicurato che prima di tutto l'Italia deve adempiere ai propri obblighi tenendo i conti in ordine. Naturalmente è ironica Norma Rangeri, tutto il contrario di quel che ispira il candidato della sinistra Alexis Tsipras, sapete greco, simbolo di una battaglia e di una coalizione che mette al centro la critica alla politica economica delle istituzioni monetarie e dei governi che ne sono arcigni guardiani e che dalla Grecia indica la rotta per un'altra Europa. Il Fatto Quotidiano, il titolo è Crimea al pugno di Putin. E poi vi dicevo questo sottosegretario Gentile che è un po', vabbè, il Fatto Quotidiano con i suoi soliti toni lo chiama sottosegretario vergogna, il titolo è Quest'uomo non può restare al governo. E poi c'è un articolo di Marco Lillo che si focalizza soprattutto sugli aspetti così giornalistici di questo sottosegretario, che avrebbe chiesto di censurare un articolo a un giornale L'Ora perché parlava del figlio indagato, e questo sarebbe uno dei tanti motivi per i quali Gentile, secondo chi lo critica, che è un uomo del nuovo centrodestra, quindi di Alfano, sarebbe stato meglio non nominarlo, e ora addirittura sarebbe meglio che venisse ritirato. L'editoriale di Marco Travaglio, che non ho tempo di leggere ma è divertente, si intitola Renzusconi e parla appunto di parte dall'accordo che Renzi aveva fatto a gennaio, ricorderete, proprio ne avevamo parlato qui alla rassegna stampa perché era il giorno dopo l'incontro tra Berlusconi e Renzi, quindi l'accordo per la legge elettorale, con questo incontro così criticato tra Renzi, che allora era solo tra virgolette segretario del PD, non ancora premier, e Berlusconi leader di Forza Italia, e ora secondo Travaglio però quell'accordo che aveva Travaglio stesso dice noi non lo giudichiamo male, perché comunque le leggi elettorali bisogna farle anche con l'opposizione, e poi però da quell'accordo si è degenerato e le scelte soprattutto dei sottosegretari dimostrano che in realtà, secondo Marco Travaglio, Renzi sta facendo il gioco di Berlusconi. Vediamo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché abbiamo accennato ieri c'è stato questo big match. La Gazzetta dello Sport titola L'Inter spaventa la Roma, pugni, rigori non dati, altre sviste arbitrali. E stasera c'è un altro big match, Milan-Juve, si giocherà qui a Milano senza Balotelli perché è infortunato. Passiamo alle pagine interne. dei quotidiani. E dal Corriere della Sera vi segnalo, abbiamo parlato di mafia, dell'intervento di Matteo Renzi su Repubblica, che ha assicurato a Roberto Saviano che tra le priorità del governo c'è anche quella naturalmente della lotta alla mafia, e quindi anche di intervenire sulla confisca dei beni, quindi se confiscarne di più alla mafia e alla criminalità organizzata e poi soprattutto utilizzarli meglio. E qui c'è questo lungo articolo di Andrea Galli e Gianni Santucci: criminalità senza frontiere, la pesca, i supermercati, i casinò, gli affari della mafia in Europa, con una mappa che fa capire quali sono, appunto, tra l'altro dividendo a seconda del colore tra Sacra Corona Unita, Camorra, Cosa Nostra e 'Ndrangheta, dividendo quelli dove ci sono gli interessi maggiori delle varie organizzazioni criminali. Sono 3.600 le organizzazioni criminali che nel 2013, pensate, operavano entro i confini dell'Unione Europea. Secondo una stima di Europol, l'agenzia finalizzata alla lotta del crimine dell'Unione Europea, il 70% dei componenti delle organizzazioni criminali provengono da paesi diversi. È 4-5% il peso stimato sul prodotto interno lordo dei paesi dell'Unione Europea quello delle attività illecite delle organizzazioni criminali. A livello mondiale, secondo l'UNODC, Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Crimine, le attività illegali corrispondono a circa il 3,6% del PIL globale. Dalla pagina interna di Repubblica invece vi segnalo un panorama delle prime indiscrezioni, dei primi progetti, dei primi rendering dei padiglioni dell'Expo, perché l'Expo è costruito proprio così, ci sono i padiglioni dei vari paesi. Allora, via i lavori, ecco i progetti degli Archistar, Oasi, Labirinti e Canyon. A Milano cadono i voli sui padiglioni, ce ne sono solo alcuni perché appunto manca ancora un po' di tempo. C'è quello della Thailandia, che è quello, ci sono delle foto naturalmente, ancora appunto in realtà sono dei rendering. Quello della Cina, Albero Italia, Germania con questi spazi high tech, Stati Uniti, Giappone, quello degli Emirati Arabi Uniti che è curato da una super archistar, cioè Norman Foster. Poi c'è quello dell'Azerbaigian, dell'Oman, del Cile, molto interessante perché naturalmente ci dà qualche piccola anticipazione. Poi vedremo, chi di noi abita a Milano li vedremo crescere giorno dopo giorno e altri magari li vedranno solo quando saranno finiti. I numeri dell'Expo: 1 milione è l'area di Expo, sorge tra Milano e la Fiera di Rho ed è grande appunto 1 milione di metri quadri. Sono 142 paesi che hanno già aderito e 60 di questi avranno dei veri e propri padiglioni autonomi. Per costruire le strutture e gestirle i paesi investiranno in totale 1 miliardo di euro, ma in realtà c'è da scommetterci che questa cifra probabilmente prima del 2015 aumenterà ancora. Sempre dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo un lungo articolo di Giovanni Valentini sulla meritocrazia all'interno dell'università, dei concorsi universitari, un tema che qui a Radio 24 sì, naturalmente seguiamo molto, per esempio con la trasmissione Giovani Talenti, e naturalmente da questa inchiesta emergono dei dati sconfortanti, per esempio il fatto che a volte si è troppo specializzati e si viene bocciati per questo. Decine di esclusi di eccellenti in rivolta, raccorda Giovanni Valentini, esclusi perché sono stati favoriti i parenti dei cosiddetti baroni. In primo piano. Rieccoci per l'ultima parte della rassegna stampa, eravamo nelle pagine interne. Dal Sole 24 Ore vi segnalo un articolo di Simone Filippetti, perché la crisi in Ucraina ha naturalmente delle conseguenze sociali sul paese, su chi ci vive, e speriamo che non sfocino in una guerra civile, però poi ci sono anche gli effetti economici. Abbiamo detto un default che si affaccia, è all'orizzonte per l'Ucraina, che vale circa 40 miliardi di euro, e Simone Filippetti ci racconta anche come ci sia un rischio Kiev sul rally delle borse. Sapete che dall'inizio dell'anno le borse hanno continuato a salire, però la crisi ora, scrive Simone Filippetti, entra nei radar di Wall Street, fari sulle banche e sui titoli della difesa, con un'analisi di Walter Riolfi, una ragione in più per la fuga dagli emergenti. E poi abbiamo visto che su questo titolava Libero le tasse sulle case. Allora, dal Sole 24 Ore tutti i chiarimenti, almeno stando a quello che è trapelato per ora, perché poi sapete che ogni giorno si ha qualche aggiornamento su questo. Tasi, i nuovi conti per case, negozi e imprese, una pagina intera, la pagina 7 del Sole 24 Ore, è con appunto la spiegazione che c'è la possibilità di un'aliquota fino all'11,4 per mille che penalizza gli immobili produttivi, cioè quelle delle imprese, e le seconde abitazioni. E poi uno schema per capire che cosa cambia per l'abitazione principale, la seconda casa sfitta, la seconda casa affittata, i negozi, i capannoni e le fabbriche agricole. dalla prima pagina di Imprese e Territori del Corriere della Sole 24 Ore, scusate, questo approfondimento sulle PMI che sono campionesse di export in Italia. In questo momento a Ro ci sono, abbiamo parlato di Ro come la sede dell'Expo, ma ci sono tre fiere, quelle degli occhiali, il Mido, quattro in realtà, il Micam delle scarpe, il Mipel delle borse, il Mifur delle pellicce, tutti i comparti che puntano sull'export, che sono fatti di piccole e medie imprese. Ora però le piccole e medie imprese vengono portate anche in Arabia Saudita con questa missione di Confindustria che parte con 70 aziende, il PIL in Arabia Saudita crescerà di oltre 5 punti e Paolo Zegna che all'interno di Confindustria ha la delega per l'internazionalizzazione spiega: imperativo sostenere il nostro export, le grandi aziende fanno da traino. La lettera del risparmiatore su Recordati che vi segnalavo all'inizio, richiamata in prima pagina, la trovate poi a pagina 20. Da Istanbul a Tunisi, la sfida negli emergenti, il focus sulle malattie rare. Dalla Stampa, pagina 17, vi segnalo un'interessantissima intervista di Maurizio Molinari, che è il corrispondente da Gerusalemme, in questo momento è a Gerusalemme per La Stampa, a un falco del governo. È il ministro dell'economia israeliano ed è considerato un po' un falco del governo israeliano. Due popoli, due stati, un'illusione. Israele deve restare in Cisgiordania. Ci dimentichiamo a volte di questa crisi in Medio Oriente, però appunto non potremmo in realtà dimenticarla, è un'altra crisi ben lontana dall'essere risolta, quella tra Israele e la Palestina, dove questi due popoli cercano ancora un modo di convivere. A proposito di crisi dimenticate, L'Avvenire si focalizza sulla Siria con questo reportage: le bombe sulle chiese, la guerra travolge i templi cristiani, in pericolo 35 antichi edifici di culto del III e IV secolo, bombardati e intenzionalmente sfregiati. E poi dall'Avvenire vi segnalo anche una bella intervista a Marco Tardelli, ex giocatore di calcio, ha giocato soprattutto nella Juventus, ma è stato anche naturalmente nella nazionale. L'urlo di Tardelli è un calcio da rifare. Capello ha ragione, la Serie A non è competitiva in Europa, Conte, l'allenatore della Juventus, naturalmente sa il fatto suo ma accetti le critiche, il calcio sorriso di Seedorf, sapete, il nuovo allenatore del Milan, se non vinci al Milan non ridono. È molto divertente questa intervista. Ma passiamo alle pagine culturali, che ovviamente abbiamo sempre poco tempo, ma sono forse la parte più interessante della domenica, anche perché la domenica è l'unico giorno in cui abbiamo forse tempo per dedicarci anche a cose che non sono strettamente di cronaca. E cominciamo quindi dalla domenica del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che sapete è una mia passione, questo breve intervento dove Ravasi sceglie una piccola citazione e poi la commenta. Questa volta è di Montaigne, Michel de Montaigne, il grande saggista francese. Si intitola La critica, la citazione è questa: festeggio e accarezzo la verità in qualsiasi mano la trovi, e mi arrendo allegramente e le tendo le mie armi vinte. Sì, ancora una volta, scrive Ravasi, ricorro a Montaigne, che immagino seduto nel suo studio al secondo piano della torre del castello paterno del Périgord, a leggere un testo che lo fa sobbalzare. In quelle pagine scopre una tesi che smonta una sua ferra convinzione, smentendone una dopo l'altra le argomentazioni. Lasciamo ancora la parola a lui. Quando mi si contraddice, si sveglia la mia attenzione, non la mia collera, e porgo la spalla alle critiche che si fanno ai miei scritti. Un vero abisso, scrive Ravasi, separa questa pacatezza di un genio rispetto all'irosa suscettibilità di tanti di noi, ben più modesti intellettualmente, ma non certo modesti di virtù davanti alla più piccola critica. Non per nulla la superbia è il primo dei vizi capitali e fiammeggia appena subisce anche solo un buffetto. Perché, come osservava Canetti, dovunque arrivi il superbo si siede e tira fuori dalla valigia la sua ammirabile superiorità. Dalla prima pagina della domenica vi segnalo anche la rubrica del direttore Roberto Napoletano, che è direttore del Sole ma anche direttore di Radio 24, che oggi è dedicata proprio alla Sardegna. Abbiamo visto sulla prima pagina dell'Avvenire la crisi in Sardegna. Il titolo del memorandum è La solitudine dei sardi in un sud dimenticato. Roberto Napoletano racconta di una telefonata con Pino Aprile, che è l'autore di un libro che si chiama Terroni, ma che racconta tutte le difficoltà del sud Italia. E in questa telefonata Pino Aprile raccontava a Napoletano: la solitudine della Sardegna oggi è più amara e profonda di quella della Calabria e della Sicilia. Non ha treni, la Sardegna non ha treni, non ha strade, non ha lavoro, paga cara l'energia. Quindi un quadro che ci richiama a quello che anche ai dati della Caritas che abbiamo visto su Avvenire. E conclude Napoletano: oggi la Sardegna ha bisogno di uomini del fare e al passo con i tempi, e purtroppo in giro non se ne vedono. Speriamo ovviamente di sbagliarci. Dal Domenicale vi segnalo poi un'altra questione che Domenicale ha seguito prima di tutti, prima che molti giornali se ne occupassero, e che continua a seguire adesso che molti giornali non se ne occupano più, che è quella della intricata vicenda di Stamina, l'inganno di Stamina. Qui c'è un intervento di Elena Cattaneo e Gilberto Corbellini, perché Gilberto Corbellini ha appena pubblicato questo libro, Le cellule della speranza, il caso Stamina tra inganno e scienza. E c'è questo libro, appunto, viene definito un vademecum delle domande preliminari che i decisori pubblici devono porsi per evitare di ripetersi di casi devastanti come quelli di Di Bella e ora di Vannoni, perché sapete che Stamina non è soltanto una questione che riguarda appunto Vannoni, che tra l'altro è anche indagato, questa specie di guru non laureato in medicina che spacciava speranze ai malati, ma è anche, riguarda anche chi nel pubblico, per esempio negli ospedali, gli ha dato credito finanziando queste cure che si stanno dimostrando ogni volta che viene fuori uno studio scientifico assolutamente inaffidabili, prive di qualsiasi appunto fondamento scientifico. Ma passiamo, perché sono tanti i supplementi culturali della domenica, passiamo a quello del Corriere della Sera, la lettura. Sapete che la lettura ha sempre la prima pagina dedicata a un artista. Oggi è un disegno di John Berger, che in realtà è saggista, poeta, scrittore, disegnatore, illustratore, e appunto in copertina c'è un fiore, probabilmente mi sembrerebbe un acquarello, direi così a prima vista, e poi una citazione di John Berger che vi leggo: quando disegno mi sento un po' più vicino al modo di destreggiare degli uccelli in volo, alle lepri che cercano un nascondiglio allorché si sentono braccate, ai pesci che sanno dove deporre le uova, agli alberi che si aprono un varco verso la luce o alle api che costruiscono le loro celle. E dall'interno, dalle pagine interne della lettura, bisogna un interessantissimo approfondimento curato da Serena Danna, nostra ex collega tra l'altro, che da New York ci racconta la storia di Eli Pariser, che ha fondato un sito che ha superato il New York Times per numero di interazioni. Il titolo di questo articolo di Serena Danna è: il web premia la qualità, due righe a parte il tam tam. Naturalmente è una questione che riguarda noi giornalisti, cioè noi che facciamo informazione, che cerchiamo di fare informazione, ma anche voi che la ricevete da noi, ascoltatori, lettori dei giornali. Secondo questo sito, che si chiama Upworthy, poche notizie ben fatte, decisivo il titolo e la gente ci segue. Quindi, se ancora ci fosse bisogno di una conferma che alla fine i lettori, gli ascoltatori, i telespettatori sanno riconoscere la qualità e sanno premiarla, ecco, viene da New York. Di spalla c'è un intervento di Jacob Norberg, che ha appena pubblicato questo libro, Sociability and its Enemies, impersonale, un po' magico, la viralità impara dalle favole. C'è questa teoria, la diffusione di buona lettura, di letteratura e di saggi in rete è promozione di sé e risponde a criteri tutto sommato antichi. La domenica di Repubblica, dedicata a Mafalda, il personaggio dei fumetti di Kino, il fumettista argentino. Grazie Repubblica, c'è una vignetta fatta apposta per Repubblica: grazie Repubblica, non si chiede l'età a una bambina, in realtà Mafalda come fumetto compie 50 anni. E poi un incontro con Kate Blanchett, che tra l'altro è candidata all'Oscar questa sera per Blue Jasmine, specializzata in ruoli regali. L'attrice australiana stanotte potrebbe vincere l'Oscar indossando i panni di una donna ricca e depressa. Sapete, il film di Woody Allen. L'articolo da Parigi è di Mario Serenellini, che l'ha incontrata. Poi la poesia del mondo, sapete, la mia rubrica preferita di R Cult della domenica, cura di Walter City, che oggi si dedica a un fantastico poeta greco, Costantinos Kavafis. C'è un piccolo componimento e poi un ricordo, una descrizione, un racconto dell'opera di Costantino Kavafis a cura di Walter City. Supplemento del Messaggero della domenica, dedicato agli UFO, divertentissimo, una storia italiana. 7 gli avvistamenti nel 2013, 56 negli ultimi 4 anni, e quanto emerge dal dossier dei giornalisti Petrilli e Sinapi, ricostruito grazie ai documenti contenuti nei faldoni declassificati della nostra aeronautica militare. Purtroppo era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, tantissimi altri approfondimenti sui giornali. Una buona domenica da Giulia Crivelli.